E allora passiamo alla seconda parte di questo spazio di focus. Si inizia con una canzone per introdurre l'argomento, d'Anna Suarez, Io apprendi. No son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Ya aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí. Coral Herrera Gómez espone, ci fa, diciamo, con questo suo articolo il romanticismo, ce lo fa vedere, diciamo, come un meccanismo, come quel meccanismo culturale più potente per perpetuare il patriarcato maschilista, e ci, diciamo, ci fa vedere la lotta contro la violenza maschile non può venir meno il consolidamento di altri modelli di relazione. Las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastra. E quindi, allora, sempre, diciamo, il suo articolo comincia così: l'amore romantico è lo strumento più potente per controllare e sottomettere le donne, specialmente in quei paesi dove le donne sono cittadine di diritto, ma legalmente non sono proprietà di nessuno. Molte donne sanno che dosare, no, molte donne, molte persone in realtà, scusa, sanno che dosare affetto e crudeltà verso una donna serve ad uccidere la sua autostima e ad innescare delle dipendenze, quindi utilizzano il binomio buono-cattivo per incastrarle, farle innamorare perdutamente, alla fine dominarle. Un esempio di questi è Caliman, che è un pappone messicano che spiega così tranquillamente come riesce a far prostituire le sue mogli. Sceglie le più povere e bisognose, preferibilmente quelle che hanno più carenza d'affetto e che sono socialmente isolate. I papponi seguono il copione alla perfezione. Prima le colmano d'amore, attenzioni e regali durante i primi 2 mesi, facendole credere che la donna della sua vita, più importante della sua vita, che si prenderà per sempre cura sia di lei, dei suoi bisogni che dei suoi capricci. Poi la rinchiude alcuni giorni in un bordello perché le altre donne facciano una terapia, fra virgolette, chiaramente, e se lei dovesse resistere, arrabbiarsi, scalciare, la lascia da sola. Mai chiederle scusa, dovrà soffrire fino a che il suo orgoglio non si spezzi e piegandosi accetti la sconfitta. Quando ti hace falta, io sé che a veces el que más sufre es el que más te ama. Il maschio deve rimanere fermo, mostrare il suo disprezzo ed andarsene nei momenti di massima rabbia, ma impietosirsi per le lacrime di sua moglie. Questa tecnica gli assicura che loro appaghino i loro desideri e si prostituiscano per lui o per strada o nei bordelli. La maggior parte di queste donne non ha e non saprebbe dove andare, e secondo loro chiaramente, se una volta provato il lusso non torneranno più alla vita povera di prima. Questo racconto dell'orrore è più comune di quanto si creda e diffuso dappertutto. Non solo papponi e sfruttatori, ma anche moltissimi fidanzati e mariti trattano le donne come cavalle selvatiche da domare, da domesticare, affinché diventino fedeli, sottomesse e obbedienti. Molti continuano a credere che le donne siano nate per servire o amare gli uomini, e purtroppo anche molte donne ne sono convinte. Per amore ci aggrappiamo a situazioni maltrattanti, di abuso e sfruttamento. Per amore ci mettiamo insieme a persone orrende che all'inizio sembrano principi azzurri, ma poi ci ingannano, si approfittano di noi o vivono a nostre spese. Per amore sopportiamo insulti, violenza, disprezzo, siamo capaci di umiliarci per amore e vantarci della nostra capacità di amare. Per amore ci sacrifichiamo, permettiamo che ci annullino, perdiamo la nostra libertà, le nostre amicizie e affetti. Pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar, que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. Per amore abbandoniamo i nostri sogni e obiettivi, per amore entriamo in competizione con le altre donne, inimicandocele per sempre, per amore molliamo tutto. Questo amore, quando ci raggiunge, ci rende donne reali, ci nobilita, ci fa sentire pure, dà un senso alla nostra vita, ci dà uno status, ci eleva al di sopra dei comuni mortali. Questo amore non è solo l'amore, ma è anche la salvezza. Le principesse delle favole non lavorano, sono mantenute dal principe. Nella nostra società essere amate e scelte da un uomo è sinonimo di approvazione e riuscita sociale. Quando un uomo ti sceglie, ti dà valore, ti fa madre, ti rende signora, questo amore ci intrappola in contraddizioni assurde. Dovrei lasciarlo, ma non posso perché lo amo, perché col tempo cambierà, perché mi ama, perché è quello che ho. Si tratta di un amore basato su conquista e seduzione e su tutta una serie di miti che ci rendono schiave, come ad esempio l'amore vince su tutto o una volta trovata l'anima gemella è per sempre. Questo amore promette molto, ma ci riempie di frustrazione, ci incatena a persone che hanno tutto il potere su di noi, ci incastra in ruoli tradizionali, ci punisce quando non ci adeguiamo alle aspettative altrui. Questo amore ci rende anche esseri dipendenti ed egoisti, perché usiamo le strategie per ottenere ciò che vogliamo, perché ci insegnano che si dà per ricevere e perché ci aspettiamo che l'altro abbandoni il proprio mondo così come abbiamo fatto noi. È talmente tanto l'amore che sentiamo che ci trasformiamo in persone amareggiate che vomitano ogni giorno rimproveri e critiche. Se qualcuno non ci ama come lo amiamo noi, questo amore ci rende vittime e ricattatrici. Io do tutto per te. Che te vaya bonito, che non te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Questo amore ci trascina all'inferno quando non siamo corrisposte, o quando non siamo infedeli, o quando ci abbandonano. Perché quando ce ne rendiamo conto, siamo ormai sole nel mondo, isolate da amiche e amici, familiari o vicini, dipendenti da un uomo che è convinto di avere il diritto di decidere per noi. Per questo amore, ma chiaramente questo amore non è amore, è dipendenza, è necessità, è paura di stare sole, è masochismo, è un'utopia collettiva, ma non è amore. Amiamo in modo patriarcale. Il romanticismo patriarcale è un meccanismo culturale per perpetuare il patriarcato, molto più potente delle leggi. La disuguaglianza si annida nei nostri cuori. Amiamo prendendo come presupposto concetti come la proprietà privata e la disuguaglianza di diritti tra uomo e donna. La nostra cultura idealizza l'amore femminile come un amore incondizionato, di abnegazione, sottomesso, legato, soggiogato. A noi donne viene insegnato ad aspettare ed amare un uomo con la stessa devozione con cui dovremmo amare Dio o Gesù Cristo. Hanno insegnato a noi donne ad amare la libertà dell'uomo, non la propria. Le grandi figure della politica, dell'economia, della scienza o dell'arte sono sempre state uomini. Ammiriamo gli uomini e li amiamo per la loro grandezza. Le donne, private delle risorse economiche e della proprietà, hanno avuto bisogno degli uomini per sopravvivere. Io pattino e stoia, saluto amore e fortuna, me llevo todo en orden, salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. La disuguaglianza economica per questioni di genere porta alla dipendenza economica e sentimentale delle donne. Gli uomini appaiono attraenti in quanto hanno soldi e opportunità, e perché ci hanno inculcato fin da piccole che la salvezza sarà incontrare un marito. Non ci hanno insegnato a lottare per l'uguaglianza o le pari opportunità o gli stessi diritti, ma ad essere belle e conquistare qualcuno che ci mantenga, che ci desideri, ci protegga, anche se questo può significare rinunciare alle amicizie, a stare insieme ad un uomo violento, sgradevole, egoista, sanguinario. L'esempio più evidente che abbiamo sono i narcotrafficanti. Hanno tutte le donne che vogliono, automobili, droga, tecnologia, hanno tutto il potere per attrarre donne sole, senza risorse e opportunità. Questa disuguaglianza strutturale che c'è tra donne e uomini si perpetua attraverso la cultura e l'economia. Se godessimo delle stesse risorse economiche e potessimo vivere con i nostri bambini in comunità con condivisione equa delle risorse, non avremmo relazioni per bisogno o necessità. Credo che ameremmo con molta più libertà se non ci fossero interessi economici di mezzo. Diminuirebbero drasticamente il numero di adolescenti povere che cercano, ad esempio, con la gravidanza di assicurarsi l'amore del maschio o quantomeno una pensione di alimenti per almeno 20 anni. Anche gli uomini insegnano ad amare, agli uomini si insegna ad amare a partire dalla disuguaglianza. La prima cosa che imparano è che quando una donna si sposa con te è tua moglie, qualcosa di simile a mio marito, però peggio. I maschi possono scegliere tra due opzioni: o si fanno desiderare e rimangono in superiorità, i cosiddetti maschi alfa, o si sottomettono alla donna, buono a nulla. Gli uomini sembrano comunque più tranquilli rispetto alle donne, visto che la tradizione insegna loro che non devono dare nella loro vita troppa importanza all'amore, né lasciare che le donne invadano tutti i loro spazi, neanche esprimere in pubblico il loro affetto. Noches y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Me voy a y te quedas. Tutto questo contenimento, contenitore, si rompe quando la donna decide di separarsi ed intraprendere da sola la propria strada. Visto che nella nostra cultura il divorzio è un enorme trauma, gli strumenti a disposizione dei maschi sono pochi. Possono lamentarsi, deprimersi, autodistruggersi, alcuni si suicidano, altri cominciano litigi mortali, altri ancora guidano come pazzi in senso contrario, oppure reagire con violenza contro la donna che dichiara di amare. È così che entra in gioco la maledetta questione di onore, il migliore esempio di due pesi e due misure. Sono gli uomini, naturalmente, che possono perseguitare le femmine, le quali dovrebbero essere uccise se non sono d'accordo con i loro bisogni. Per gli uomini tradizionali, la virilità e l'orgoglio sono al di sopra di tutto. Si può vivere senza amore, ma non senza onore. Milioni di donne muoiono ogni giorno per crimini d'onore, per mano dei loro mariti, padri, fratelli, amanti o per suicidio, costrette dai propri familiari. I motivi? Parlare con un uomo che non sia tuo marito, essere stuprata, voler divorziare. Anche solo una chiacchiera può uccidere una donna. E queste donne non possono cominciare una vita propria al di fuori della comunità. Non hanno soldi, non hanno diritti, non sono libere, non possono lavorare fuori casa, non c'è modo di scappare. Anche le donne che godono dei loro diritti rimangono intrappolate in relazioni matrimoniali o sentimentali, donne povere o analfabete, donne ricche e colte. La dipendenza emotiva delle donne non conosce distinzione di classe sociale, etnia, religione, età o orientamento sessuale. Sono tantissime le donne in tutto il pianeta che subiscono la tirannia del sopporta per amore. L'amore romantico è, in questo senso, uno strumento del controllo sociale e anche un anestetizzante. Ce lo vendono come un'utopia raggiungibile, ma mentre gli andiamo incontro, cercando la relazione perfetta che ci renderà felici, ci rendiamo conto che l'unico modo di relazionarci sia perdere la propria libertà e rinunciare a tutto pur di assicurare un'armonia coniugale. In questa stupenda armonia, gli uomini tradizionali vogliono spose tranquille che li amino senza chiedere nulla, o molto poco, in cambio. Quanto più le donne hanno un'autostima bassa, tanto più si vittimizzeranno e saranno dipendenti da loro. È così che fanno fatica a capire che il vero amore non ha nulla a che vedere con la sottomissione, con il sacrificio o con la sopportazione. La coppia è la pietra angolare della nostra società. Per questo aziende, chiesa, banche penalizzano i single e promuovono i matrimoni eterosessuali. Quando l'amore finisce o si rompe, lo viviamo come se fosse un grande trauma. Ci disperiamo completamente. Non sappiamo dividere le nostre strade. Non sappiamo trattare con l'affetto di chi si vuole allontanare da noi o che abbia incontrato un nuovo amore. Non sappiamo gestire le emozioni. Per questo sono frequenti le minacce, gli insulti, le vendette, le cattiverie tra coniugi. Ed è per questo che tante donne vengono maltrattate e assassinate quando decidono di separarsi e ricominciare una propria vita. La quantità di uomini che non hanno strumenti per affrontare una separazione è molto alta. Già da bambini imparano che devono essere dei re e che i conflitti si risolvono con la violenza. Se non lo imparano a casa, lo apprendono in televisione. I suoi eroi ottengono giustizia usando la violenza, imponendo la propria autorità. Questi eroi non piangono se non riescono a raggiungere i propri obiettivi: vincere una coppa di pallone o sterminare gli androidi. Que me diste, me llevo todo lo que di que no quisiste. Me voy contenta, no tengo más que darte. Me llevo todo lo que di que no cuidaste. Quello che ci insegnano nei film, nei racconti, nelle serie TV è che le ragazze degli eroi li aspettano pazientemente, li adorano e si prendono cura di loro. Sono sempre disponibili appena loro hanno un po' di tempo. Le ragazze della pubblicità offrono il loro corpo come merce, le ragazze belle della televisione offrono il loro amore come premio al valore maschile. Le brave ragazze non abbandonano i loro mariti, le cattive ragazze, quelle che si credono padrone del proprio corpo e della propria sessualità, che si credono padrone della propria vita o che si ribellano, arrivano sempre ad un meritato castigo: carcere, malattie, ostracismo sociale o morte. Le cattive ragazze sono odiate sia dagli uomini che dalle brave ragazze. Questo perché destabilizzano l'ordine armonioso delle cose quando prendono decisioni o rompono con i legami. I mezzi di comunicazione spesso ci presentano i casi di violenza contro le donne come se fossero dei crimini passionali e giustificano gli assassini o la tortura con espressioni tipo «non era una persona normale, aveva bevuto, già si era messa con un'altra persona, lui impazzì quando si rese conto di e se la uccise avrà qualcosa avrà combinato». E così la responsabilità e la colpa ricade sulla donna e la vittima è lui. Lei gli chiede una cantonata e lei gli tira una cantonata e merita questa lezione. Lui deve vendicarsi per acquietare il suo dolore e ricostruire il suo orgoglio. La violenza è una componente fondante delle nostre società. Quindi è necessario che l'amore non venga confuso con il possesso, così come la guerra non deve essere confusa con aiuto umanitario. In un mondo in cui usiamo la forza per imporre il potere e controllare le persone, dove saltiamo l'uso della vendetta come strumento per gestire il dolore, dove si usa la pena per correggere le deviazioni e la pena di morte per dare conforto alle vittime, è necessario più che mai imparare a trattarsi bene, con rispetto. È fondamentale comprendere che l'amore si deve basare sull'equanimità e sull'avere cura, non solo per il coniuge ma per l'intera società. È essenziale stabilire relazioni alla pari, in cui le differenze servono ad arricchire l'altro e non a sottometterlo. È essenziale autorizzare le donne e farle capire che non devono vivere assoggettate all'amore e insegnare agli uomini a gestire le proprie emozioni in modo da poter controllare rabbia, impotenza, la paura e far capire che le donne non sono oggetti personali ma compagne di vita eventualmente. Inoltre dobbiamo proteggere le bambine e i bambini che soffrono in casa per la violenza maschile, perché devono sopportare le umiliazioni e i pianti della propria eroina, la mamma, che deve sopportare grida, colpi, paura, a volte rimangono orfani perché il loro mondo è un inferno. È urgente farla finita con la violenza maschile. Viene ancora considerato un problema personale che coinvolge alcune donne. Per questo non si alza la voce, non si denuncia e non si interviene. Buttando un occhio alle cifre, ci rendiamo subito conto che il personale è politico e anche economico. La crisi accentua il terrore e molte donne non possono neanche separarsi o divorziare perché non possono permetterselo economicamente. La riprova è che oggi si denunciano meno casi e spesso le donne si tirano indietro. Con le tasse giudiziali che si pagano in Spagna, ad esempio, le donne economicamente più umili non pensano neanche di denunciare. Ricorrere alla giustizia è diventata una cosa per ricche. È necessario un cambio sociale, culturale, economico e sentimentale. L'amore non può più poggiare sulla proprietà privata e la violenza non può più essere uno strumento per risolvere i problemi. Le leggi contro la violenza di genere sono molto importanti, ma devono essere accompagnate da un cambio della nostra struttura sentimentale ed emotiva. Per far sì che questo sia possibile, bisogna cambiare nella nostra cultura e promuovere modelli d'amore che non siano basati su lotte di potere per dominare e sottomettere. Altri modelli di riferimento che non nascano dalla fragilità da un lato e la brutalità dall'altro. Dobbiamo imparare a spezzare questi miti, disfarci delle imposizioni di genere, dialogare, godere delle persone che ci camminano a fianco, unirci e separarci serenamente, trattarci con rispetto, costruire relazioni sane. Ho smesso di amarti perché mi fa male la testa e poi per